gioco, loro interessi, i tuoi compromessi. Tutto da discutere, tutto ritrattare. Tutto da discutere, tutto ritrattare. Vai scendere, i loro compromessi. Non ingannarti, non stare al loro gioco.